Laggiù, laggiù c'è il sole e voglio correre cantando te. Volo dentro al tuo cuore, poi precipito e ti porto via con me. E tu ti arrendi e non ti accorgi che ti tengo su con le mie mani su. Io sono il vento e posso soffiarti addosso fino a non poterne più. Mentre tu non parli e bevi il tuo caffè, il silenzio che cade su di te, io lo trasformo in musica e poi la regalo a te. Qua giù c'è il mondo e tu ti stai perdendo in un caffè e cammini sul fondo, giri intorno, gridi, non sai più chi sei. Sei tu, sei tu, mi ascolti, sei tutto quel che ho, la mia voce va, ti confonde un po', canto nel tuo silenzio, io canto con tutta l'anima che ho. Mentre tu mi guardi e vieni verso me, nei tuoi occhi c'è quella luce che scioglie quella marea di lacrime, le regali a me. Nei tuoi occhi c'è quella luce che scioglie quella.